A tempo di sport con Claudio Arrigoni. Declaro aperto il 12° campionato del mondo di football 1982. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Insieme con il Brasile è 3 volte campione del mondo. Ai titoli del 34 e del 38, al secondo posto del 70, il calcio azzurro aggiunge adesso il primo posto, il titolo di campione del mondo del 1982. Che ricordi meravigliosi per chi li ha vissuti e naturalmente per chi non li ha vissuti forse valgono tante parole di coloro che c'erano. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Laura Banossi in redazione, Matteo Comes in regia per ricordare quei bellissimi momenti di esattamente 30 anni fa, quando vincemmo quel mondiale, 1982. Fu il mondiale che rimane nelle menti, nel cuore di chi l'ha vissuto e anche di chi non c'era, probabilmente molto più di quello del 2006. Non è un'eresia dire questo, anche se fu meraviglioso naturalmente anche quello vinto dai ragazzi di Marcello Lippi, ma quello di Berzot, di Paolo Rossi, di Bergomi, di Tardelli, eccetera eccetera, dovremmo ricordarli davvero tutti. È il mondiale, è stato il mondiale più bello, anche perché inaspettato, anche perché è arrivato dopo tanti giorni di polemiche, e chi meglio della persona che lo ha rappresentato per parlarne oggi. Un giocatore di questo tipo non si vede più, non si vede più perché oggi si vedono tanti muscoli, non così tanta tecnica. E invece Paolo Rossi è stato l'uomo qualunque che è diventato il più bravo del mondo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, so che sei gettonatissimo in questa giornata, quindi ci fa tanto, davvero tanto piacere averti qui a Radio 24. Grazie, oggi non è il compleanno mio, oggi è il compleanno di tutti gli italiani, perché quel mondiale dell'82 in Spagna è veramente il mondiale di tutti, è quello che si ricordano tutti, è quello che hanno nel cuore tutti gli italiani, quindi è con piacere, insomma, che oggi mi sottopongo a una serie, una raffica di ricordi, di amarcord, comunque belli, perché è un ricordo estremamente positivo lasciato da quella nazionale, è un fare un tuffo nel passato, perché 30 anni sono tanti, ovviamente sono probabilmente 3 generazioni, però sì. È come se non passasse il tempo, cioè, anzi più passa il tempo e più quel mondiale accresce di qualcosa di speciale, è diventata una cosa storica, epica. No, è veramente meraviglioso. 800 24 00 24 è il nostro numero verde per chi vuole mettersi in contatto con noi e con Paolo Rossi, e questo non è poco. 349 238 6666 invece per i vostri sms. Già qualcuno comincia a arrivare per te, naturalmente Paolo, do del tuo a Paolo Rossi perché siamo vecchi amici e non per mancanza di rispetto naturalmente. Paolo, hai già accennato, è stato il mondiale di tutti e questo è verissimo. Fra l'altro lo sai che è colpa tua se ci sono persone che in quel periodo si sono innamorate, si sono abbracciate e hanno fatto magari anche qualche figlio, quindi prenditi qualche colpa anche, o qualche merito naturalmente, qualche merito, in questo dai, caso dai, naturalmente qualche merito. No, vi rendevate conto di quello che stavate facendo? No, obiettivamente lì quando tu sei sul campo non hai il tempo ovviamente per metterti a pensare altre cose. La concentrazione è talmente tanta che tu pensi a quello che stai facendo lì, ti concentri su quello che devi fare, ma non pensi a quello che succede in Italia, a quello che succede tra gli sportivi. Ovviamente no, abbiamo realizzato dopo. Guarda, io ho incominciato a realizzare e che avevamo vinto il mondiale e alla dimensione di quel successo solo tornando in Italia il giorno dopo con l'aereo del presidente Pertini che ci aveva accompagnato in Italia. Siamo atterrati a Ciampino e Ciampino, arrivare al Quirinale, che saranno 15 chilometri, 20 chilometri, c'era un 15-20 chilometri di folla per le strade, nelle piazze. È stata una cosa, ti dico, una sensazione incredibile, bellissima, una cosa che non ho più rivissuto ovviamente dopo. E Paolo Rossi oggi fa mille cose, fra l'altro questo agriturismo meraviglioso che ha in Toscana, questo bellissimo libro che è uscito da poco, 1982, Il mio mitico mondiale, per Kowalski. Fra l'altro c'è già arrivato un sms che dice: ero alla presentazione del libro, grande Paolo Rossi, quindi a Vicenza credo che l'hai fatta una di queste presentazioni. Sì, beh, sì, il nostro ascoltatore. No, per la verità sto girando l'Italia, immagino. Come cantanti rock, sai che fanno il tour. immagino. Io lo faccio per il libro. Sì. Un altro sms che è arrivato al 349-238-6666. Quello del 1982 fu il mondiale, scritto in maiuscolo. Non c'era internet, non c'erano megaschermi, si vedevano le partite nei bar, ammucchiati ovunque ci fosse una piccola TV a tubo catodico. Non c'è paragone con quello di Lippi, dice Stefano da Monza. Ed è effettivamente è vera questa annotazione, cioè non c'erano tutte le possibilità di oggi. No. Questo di fatti secondo me è un punto a favore. C'era un momento di forte aggregazione, tant'è che le partite le vedevano spesso concentrati in case di qualcuno, di qualche amico, si ritrovavano oppure nelle piazze appunto che trasmettevano, quindi è stato un mondiale convissuto insieme a tutti gli altri, quindi non c'erano le possibilità che c'erano oggi, grandi schermi, in TV, HD, in casa, certo. E quindi probabilmente anche quello insomma ha fatto la sua parte, non c'è dubbio. Senti, un altro sms che arriva al 349-238-6666 di Claudio, dice: Rossi sostituito e a zero gol, che applaude il compagno subentrante, stavo per esplodere, grazie Pablito 30 anni dopo. Ma te lo ricordi quel momento? Io mi ricordo di tutto ovviamente. E la cosa che va sottolineata di quel mondiale è proprio il gruppo che avevamo di quella nazionale. Era un gruppo fortemente, devo dire, modellato, anche cesellato da Enzo Berzot, perché lui pensava che attraverso la coesione, l'armonia tra i giocatori si dovesse in qualche modo arrivare a raggiungere un traguardo. Se non ci fossero state quelle componenti, le difficoltà sarebbero state maggiori. E lui aveva modellato quel gruppo, lui piaceva che fossimo un gruppo unito, coeso, compatto, che ci volessimo bene tutti, e credo che una parte di quel successo lo si debba proprio a questa sua forte volontà, insomma, nel volere una cosa così, così forte e radicata. Tant'è che nei momenti di difficoltà ci siamo uniti e stretti gli un con l'altro e poi abbiamo superato momenti difficili. Stiamo parlando del mondiale del 1982 con il protagonista di quel mondiale, Paolo Rossi, 800 24 00 24, il nostro numero verde 349 238 6666. E poi vi ricordo Twitter a tempo di sport, perché vogliamo sapere dove eravate in quella vittoria del mondiale, come l'avete vissuta. Scriveteci su Twitter o i vostri sms o le vostre chiamate. Paolo, naturalmente tantissimi gli sms che stanno arrivando. Tu arrivavi da un momento non facile in quel mondiale, Berzot ha creduto fortemente in te, che cosa provavi in quei momenti, il passaggio davvero nel tuo caso un po' dalla polvere alle stelle? Difficoltà, perché io arrivavo da 2 anni di inattività, ero stato squalificato per 2 anni per una vicenda legata al calcio delle scommesse dell'epoca, una cosa incredibile. Ho preso 2 anni ingiustamente, senza aver mai commesso niente, per un episodio di 60 secondi che è anche dell'incredibile. Quindi sono arrivato a quel mondiale giocando solo 3 partite di campionato e quindi con grandi difficoltà da un punto di vista non solo fisico ma anche mentale. Non riuscivo a ricollegarmi un attimo con il campo, proprio mi mancavano proprio l'abitudine alla partita, le attenzioni, la concentrazione sul campo, e le avrei riacquistate solo giocando. Berzot lo capì e lui aspettava da un momento a un altro che io potessi in qualche modo restituirgli qualcosa. io gli ero debitore in quelle prime partite in cui giocai sicuramente in maniera non un po' incolore, insomma, non sicuramente non all'altezza delle mie possibilità, però lui pensava che da un momento a un altro io potessi sbloccarmi, e in effetti così fu, però solo la sua, diciamo, testardaggine premiò poi il risultato alla fine, perché se non avessi avuto un allenatore come Berzot, perché lui aveva sposato delle teorie, delle cause, aveva delle sue convinzioni, e è ovvio che lui vedeva in me il giocatore di 4 anni prima del Mondiale d'Argentina e pensava, certo, che potessi in qualche modo rigiocare a quei livelli, e così fu dal Brasile in poi, fortunatamente. E hai detto bene, Berzot probabilmente riprendeva un po' quello che era stato il Mondiale dell'Argentina. Fra l'altro uno degli ascoltatori ci dice attraverso un SMS al 349-238-6666: la nazionale più bella per me fu quella del 78, è da lì che nacque tutto, Paolo. Ma il 78 devo dire che fu un mondiale molto bello, giocato a livello, ecco, contrariamente all'82, 78 partimmo troppo forte, certo, se vogliamo usare questo termine, e poi andammo un pochettino in calando, mentre in 82 partimmo piano e poi andammo in crescendo. La differenza fu quella, però nel 78 diciamo che fu una specie di semina, perché poi alla fine nell'82 ce n'erano 6-7 undicesimi, facevano parte della spedizione argentina, sì, del 78, quindi nell'82 poi ci fu la raccolta, ecco, sostanzialmente nello 78 non avevamo forse la convinzione, ci accontentammo, poi insomma non avevamo secondo me neanche la testa, la mentalità, invece nell'82 eravamo molto più convinti, avevamo più consapevolezza dei nostri mezzi e c'era un po' di esperienza in più anche. Paolo, ci fermiamo un attimo. Breaking news. È a questo punto ufficiale: il Presidente del Consiglio Mario Monti lascia l'interim all'economia e diventerà Ministro dell'Economia l'attuale Vice Ministro Vittorio Grilli, come anticipato dall'agenzia di stampa Radio Corriere del Sole 24 Ore, come già anticipato anche da Radio 24. Adesso è arrivata la conferma ufficiale: alle 16.30 al Quirinale vi sarà la cerimonia di giuramento del neo Ministro all'Economia Vittorio Grilli. Breaking news. Di nuovo con Paolo Rossi, ci siamo fermati per questa notizia che riguardava naturalmente la politica e il nuovo ministro Grilli. Torniamo da Paolo. Paolo, chi conosce Paolo Rossi sa che una delle cose più belle di Paolo Rossi è il sorriso. Ridevate in quella nazionale, vero Paolo? Tantissimo, guarda, siamo stati un gruppo molto scherzoso, ironico, c'erano dai Bruno Conti, Tardelli, Graziani, amavano fare continuamente scherzi, era veramente una nazionale goliardica, è stata, anche perché eravamo molto amici fra noi, quindi quell'amicizia è voluta dire tanto, quando c'è coesione all'interno di un gruppo è più facile poi andare d'accordo. Via Berdotta aveva vissuto, credo, con Valcareggi, mondiale del 70, del 74, anche in cui la nazionale era un po' spezzata in tronconi, c'erano i clan, e lui questa cosa non piaceva assolutamente. Lui voleva che veramente all'interno ci fossero 22 giocatori che in qualche modo si riunissero sempre, stassero insieme, chi stava fuori comunque partecipasse attivamente alle vicende degli altri, che non subisse soltanto, e che fosse comunque contento comunque del ruolo, perché tutti avevano un ruolo, anche per chi non ha giocato. Ciao Paolo, dopo la nascita di mio figlio la gioia è più grande, un ricordo dolcissimo. Marco da Milano, dopo la nascita del figlio sei Paolo. hanno scritto in tantissimi, bello, naturalmente, no, su dove erano un altro, lei, guarda Fede, sì, da Alessandro dice: ero ufficialetto degli Alpini in campo estivo in Pasini Sperduti della Toscana, la vedemmo in TV collegata a batteria col camion. Guarda, il libro che ho scritto insieme a mia moglie nasce proprio dal lo ricordiamo, è 1982, sì, il mio mitico mondiale Kowalski. Sì, nasce proprio dall'idea di raccogliere le storie degli italiani, perché le cose belle dopo 30 anni erano quelle di sentire le persone comuni che raccontano ancora oggi e si ricordano per filo e per segno cosa facevano, dove erano, con chi erano, no? Sì. E tutti avevano una storia da raccontare. Naturalmente le abbiamo selezionate un po', quelle più divertenti, quelle più curiose, gli aneddoti più carini, e il libro nasce proprio dall'idea di raccogliere tutte le storie degli italiani. No, sarà imperdibile allora questo, perché poi fra l'altro a chi conosce Paolo Rossi o chi lo segue attraverso Sky, fra l'altro qui un altro ascoltatore dice: buongiorno Paolo Rossi, mi ha stupito soprattutto per la sua competenza calcistica a Sky, veramente bravo, umile e competente. Devo dire che in questo un po' di colpa o di merito, qui vogliamo dire, ce l'ho anch'io, perché ricordo quell'anno dell'inizio del 2000 quando ti chiamai, non eri ancora in televisione, ero direttore di Telepiù, no. Minotaveri, mi ricordo, mi diceva: guarda, esatto, chiamiamo Paolo Rossi, però è difficile perché lui non vuole andare in televisione, eccetera. È vero, un po' di colpa è anche tu. Un po' di grande merito, direi, in questo caso. Molti ci scrivono invece chiedendoti un ricordo di Gaetano Scirea, ed è giustissimo in questo caso. Beh, Gaetano Scirea è stato, adesso sembra, non è retorico quello che dico, perché talvolta si cade un po' nella retorica quando si parla di chi non c'è più. Lui era un ragazzo straordinario, era un ragazzo veramente un modello, lo possiamo dire proprio a cuore aperto, che lui era un modello, perché era un ragazzo che, oltre alle qualità che aveva, te, che ha fatto una carriera incredibile. Ha vinto tutto quello che poteva vincere, poi giocando da difensore dietro non è mai stato espulso una volta, ma sarebbe un livello di classe eccelsa. Poi era un giocatore moderno perché sapeva costruire il gioco, era un costruttore di gioco straordinario, poi era un ragazzo buono, era proprio un buon ragazzo, andava d'accordo con tutti, era un esempio, proprio da prendere ad esempio. Sì, manca. Molto. Guarda, la parola giusta, secondo me, che hai detto, tu che l'hai conosciuto così bene, è proprio buono, e che è una cosa bellissima. Sì. Gli All Blacks, quando scelgono il nazionale di rugby neozelandese, quando scelgono i giocatori, dicono good player, good, cioè buoni giocatori, ma buoni, cioè buone persone. Ed è probabilmente anche. Era così. Su Twitter ci arrivano naturalmente moltissimi messaggi dove si trovavano. Uno in pieno deserto nell'82 seguiva le gesta della nazionale, vedeva la partita. In una TV apparentemente in bianco e nero. Bello. Piccolissima. Ti lascio un nostro ascoltatore, Andrea da Macerata. Buongiorno Andrea. Buongiorno, innanzitutto vorrei parlare con Paolo Rossi. Comunque no, volevo dire che all'epoca avevo 9 anni e praticamente il mondiale me lo ricordo tutto, ma in particolar modo Italia-Brasile, perché è stata qualcosa di indimenticabile. E poi una cosa, soprattutto ero talmente un tifoso di Paolo Rossi che dove andava lui praticamente io ero della stessa squadra dove andava lui, perciò di fatto anche per il Vicenza, il Perugia, perciò è... Cioè, sono senza parole, ecco. Ah, no, Andrea, grazie. Andrea, grazie. Ha ragione. Lo siamo un po' tutti quando parliamo con mostri sacri di questo tipo. 11 luglio, concerto a Torino dei Rolling Stone, finale per uno di 18 anni, è il massimo, ci scrive. Lo immaginiamo. Alessio da Arezzo, invece, altro ascoltatore, e fra l'altro è dalle tue parti, perché il tuo bellissimo agriturismo è proprio lì, no? Giusto, Paolo? Sì, io vivo vicino a Arezzo. Quindi per chi vuole andare, digiti su Google agriturismo Paolo Rossi, lo trova in un attimo. Alessio, buongiorno. Sì, Carlo, buongiorno. Un ciao enorme a Paolo Rossi, al sogno che bambino, io avevo 10 anni, ci ha regalato all'epoca, sogno realtà che è incredibile ancora ricordarsi. Io ero follonica a vedere la finale con i miei, nel nostro appartamento, un piccolo televisore di quelli arancioni di pochi pollici, antenna volante in bianco e nero, le lacrime del rigore sbagliato di Cabrini e poi le lacrime, quelle vere, di una gioia infinita. Grazie Alessio, grazie. Di questo ricordo. Come vedi Paolo, basta dire il tuo nome e qui arrivano... tantissime SMS. Ti lascio fra pochissimo uno che scrive, riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio, quindi vedi, l'ho vista al bar insieme ai tedeschi, poi abbiamo fatto l'amore in macchina sulla spiaggia e ci siamo insabbiati. Vabbè Paolo, hai queste colpe, questi meriti più che colpe, meravigliosi. Senti Paolo, un'ultima cosa, tu hai parlato del Brasile, quel campionato fu straordinario perché ci arrivammo battendo il Brasile, l'Argentina e la Germania. Sarebbe possibile oggi, secondo te, un triplet di questo tipo? Non lo so se sarebbe possibile, ma battendo queste squadre accresce, come dire, la stima che possiamo avere nei confronti di una nazionale che ci porteremo sempre assolutamente dietro, perché tu quando fai delle imprese come fece quelle dell'Italia dell'82 e poi naturalmente rimangono proprio impresse nella mente della gente, degli sportivi, perché quando noi battemmo l'Argentina che era campione del mondo, il Brasile che era considerata da tutti la squadra fra le più forti di tutti i tempi, poi dopo la Polonia che in quel momento in semifinale era fortissima e la Germania in finale. Sì, incredibile. E quando tu vinci quattro partite del genere e come le vinci soprattutto, è lì che tu lasci proprio un ricordo forte, no? E quindi è una nazionale quella che esplose in quel periodo. In quel periodo, io lo dico sempre, avremmo vinto contro qualsiasi altro avversario. Assolutamente. Paolo, grazie. So che adesso hai degli impegni non solo radiofonici e televisivi, ma anche di papà. Famiglia, quindi, famiglia. Sì, quindi anzi, ricordaci i nomi delle tue bimbe meravigliose. Le mie figlie, una è Maria Vittoria e l'altra è Sofia Elena. Sofia Elena, che è appena arrivata. Paolo, grazie, è stata grazie, 20 minuti, Paolo, meravigliosi. Un abbraccio e torna dalle bimbe. E abbiamo parlato con Paolo Rossi. Momenti belli, tantissimi gli sms che sono arrivati. Dove eravate in quel 1982? Fra poco ne leggeremo, leggeremo quelli che sono arrivati, non solo perché oggi è stata la presentazione delle maglie della Juventus, ha parlato Andrea Agnelli, ha detto anche delle cose molto interessanti, poi la presentazione del Napoli, ne parleremo. Ci sono novità di mercato, in particolare riguardanti Thiago Silva e Ibrahimovic, e Rai in via Turati, insomma tanti gli argomenti oltre al tour. Naturalmente vi ricordo dove eravate in quel 1982, 800 24 00 24, per le vostre chiamate 349 238 6666, i vostri sms, Twitter @atempodisport. 30 anni da Spagna, 1982, il mondiale più bello, il mondiale più amato. 800 24 00 24 per mettersi in contatto con noi, Claudio Arrigoni per Radio 24, con l'imprescindibile lavoro in redazione di Laura Vanossi e quello di Matteo Comes in regia. I vostri sms al 349 238 6666. Parliamo ancora un po' di questo mondiale, poi avremo tante voci, quelle di Andrea Agnelli con queste dichiarazioni fatte durante la presentazione delle maglie per la Juventus, via le stelle, rifiutiamo il calcolo degli scudetti della FIGC, ma ne parleremo dopo. Un sms di Cesare: io di nascosto dai miei genitori sono salito su un silos di 12 metri per issare la bandiera, e qui è un rischio naturalmente, ma che ricordi. Un altro: il regalo più bello della mia giovinezza, Italia-Brasile da delirio al bar con i padri, troppo bello. E Marco da Como ci porta questo ricordo familiare che è veramente bello. Un altro: una domanda di Nick da Novara: non vi capita mai di ritrovarvi insieme come fanno i vecchi compagni di scuola per ricordare quei momenti gloriosi? Paolo Rossi non è con noi, ma le posso rispondere anche un po' io, conoscendo un po' dei ragazzi dell'82. L'ultima volta che si sono ritrovati è stato per il funerale di Enzo Berzot a Milano, e capita ogni tanto comunque che si rivedano. 10 anni aveva l'ascoltatore che è andato su un silos. Va bene. Beh, spero che i genitori non ascoltino comunque adesso Radio 24. Abbiamo anche un ascoltatore, Elia da Roma. Ecco, prima abbiamo detto che si trovava in pieno deserto, non abbiamo capito bene come avesse potuto seguire in pieno deserto quel mondiale del 1982. Ce lo dice lui allora, Elia da Roma, ma come faceva a vedere quel mondiale, essere informato in pieno deserto? Buongiorno. Buongiorno Claudio. Io quel giorno sono andato in un albergo, perché lavoravo in pieno deserto, ma c'era una città vicina che si chiamava Taif, e sono stato convocato da alcuni amici che mi avevano fatto una sorpresa, mi avevano invitato, inglesi, americani, tedeschi, francesi, tutti lavoravamo in questo, e stavo in Arabia Saudita, quindi in questa grande nazione, e anche e lì si seguiva, ci dava un soldo. Ah certo, certo, non valevamo, immagino, nulla. E pensi che mi avevano preparato una poltrona di quelle rosse tutte in pelle in questo salone enorme, ci saranno state 300-400 persone, vedevamo il televisore su uno schermo gigante tipo proiettato, di un 3 metri per 2. E fu una grande emozione, immagino, lì a vedere così lontano da casa. Rossa, ero l'unico italiano. Immagino. Un'emozione enorme, e tutti volevano scommettere con me. Se avessi scommesso un dollaro per uno... Immagino. Altri che hanno seguito lontano, grazie Elia, altri che hanno seguito da lontano. Silvano da Parma era in Sud America, magari non in Brasile, non lo so, però era in Sud America e veniva chiamato Rossi, è vero Silvano? No, allora ascolti, io non ero in Sud America, sono andato in Sud America per una vacanza a novembre. L'anno successivo? No, alla fine dell'82. E quando ero in giro, che viaggiavo con la gente, mi chiamavano gringos e dicevo: no, non sono gringos, non sono americano, sono italiano. Ah, italiano, Paolo Rossi. Era il nome di Paolo talmente corto, mi facevano sentire una persona importante, insomma, perché era italiano, perché avevamo vinto il mondiale. Sì, quello fu un mondiale per tutti, soprattutto per chi appunto poi girava fuori dall'Italia. Fu un mondiale che si ricorda ancora. Paolo Rossi prima non ce l'ha detto, ma qualche tempo fa, che era a San Siro. Fra l'altro Paolo non è andato, non naturalmente nei posti tribuna d'onore eccetera, perché stiamo parlando di una grandissima persona, quindi era su secondo, terzo anello, di fianco aveva dei tifosi cinesi, credo dell'Inter, che quando l'hanno visto hanno detto: ah beh, Paolo Rossi. Quindi si ricorda ancora oggi Paolo in tutto il mondo, non solo l'Italia. È stato veramente un piacere averlo qui. Tantissimi gli sms che ci ricordano un po' dove erano. Un altro: quanto ci manca Scirea, è vero, e l'abbiamo ricordato proprio anche con le parole di Paolo Rossi. Un altro che si trovava in Giappone, tutti gridavano Paolo Lossi, naturalmente con la L. I vostri ricordi sono tantissimi, li metteremo un po' tutti da parte, perché sono veramente tante le vostre esperienze che ci avete ricordato. Sentiamo Luigi dalla provincia di Vicenza, che ha chiamato l'800 24 00 24, perché molti ci hanno scritto che in quel momento erano a Militare. Anche lei, Luigi, vero? Sì, anch'io, guardi, è stata un'emozione incredibile, anche perché io avevo conosciuto Paolo Rossi, incontrato insomma 4 anni prima, nel 78, alla fine del mondiale. Era venuto lui e Cirilli in un villaggio turistico vicino a Chioggia, e l'avevo conosciuto quel giorno. E dopo, 4 anni dopo, mi trovo a fare il militare nel Cadore, stavo finendo perché il 22 luglio avrei finito, e che durante tutte le eliminatorie, i quarti e la semifinale, l'ho seguita dalla caserma, sì che c'era un casino incredibile. E la finale mi trovavo in questo villaggio, nello stesso villaggio turistico, perché avevo la licenza ordinaria, ed era pieno di tedeschi, sicché è stata una soddisfazione unica. Immagino. Una soddisfazione proprio incommensurabile, sicché lo ricordo con estremo piacere. Grazie Luigi, grazie anche del suo ricordo, così come quello di Max, che ha scritto un altro uno delle decine di sms che sono arrivati al 349-238-6666. La finale con la mia fidanzata, che diventerà mia moglie. Ricordo che l'accompagnai al treno per il ritorno a casa in Lombardia, sommerso da bandiere tricolore. Eravamo pazzi di gioia. Quello del 2006 non lo sento mio, ma no, anche quello del 2006 naturalmente dobbiamo sentirlo nostro, però per chi ha vissuto quei momenti dell'82 immagino siano molto più vividi, anche se più lontani nel tempo. E poi insomma il fatto che la fidanzata poi è diventata la moglie, questo naturalmente aumenta i ricordi belli per Max. Chiudiamo un po' questo giro di ricordi con Riccardo da Verona, che ha chiamato l'800 24 00 24, che noi abbiamo detto non c'erano i megaschermi. C'era qualche megaschermo allora, vero Riccardo? Sì, c'era buongiorno a tutti, c'era un megaschermo dove io ho seguito la partita a Torino, e nel pomeriggio c'era stato il concerto dei Rolling Stones, dove Mick Jagger si è presentato con la maglietta di Mario Rossi addosso. Di Paolo, sì. Di Paolo Rossi, cioè, addosso. E finito il concerto, ci siamo trasferiti nell'adiacente palazzetto dello sport, dove abbiamo seguito la finale da vivo. Ah, sì. C'erano e si viveva un mega schermo nel proprio palazzetto dello sport. Eh sì, e tanti furono i mega schermi, ce lo scrivono comunque anche in molti. Grazie Riccardo, grande Pablito, Lorenzo da Vicenza, poi parti per l'Indonesia, i monaci nella giungla conoscevano la formazione dell'Italia e ci facevano festa, incredibile. Davvero in tutto il mondo fece eco quella grande vittoria. Chiudendo questa parentesi, insieme a uno che di nazionali, di vittorie mondiali, insomma sa un po' tutto, anche se in un altro sport, perché c'è qui Andrea Zorzi. Buongiorno Andrea. Ciao, ben trovato. Non parliamo adesso né di pallavolo, ma dove eri in quel 1982 magnifico? Prima abbiamo ricordato Paolo Rossi, tantissimi gli sms che sono arrivati. E tu? Ma nomi di paesi piccolissimi. Torreselle, dove io abitavo. Tre Baseleghe, dove ho visto la partita. Abbiamo festeggiato su un trattore con rimorchio carico di ragazzini che andavano in giro divertendosi. È stato il mondiale più bello, sì, Andrea. C'è stato questo 2006, ma molti ci scrivono non c'è il paragone. Beh, dipende dall'età. Sì. Io credo che sia un'età nei quali questi grandi eventi arrivano dritti al cuore. Io 82 c'avevo 17 anni e quindi insomma ero nell'età giusta per innamorarsi. Sì, ma infatti guarda che l'abbiamo detto, cioè abbiamo parlato con Paolo, guarda che ha il merito, non la colpa in questo caso, il merito però di aver fatto innamorare tantissime persone, oltre che del mondiale, ma anche fra di loro, perché probabilmente scoccò qualche scintilla proprio in quel mondiale. Alla fine devo dire che, andando al di là del calcio, che naturalmente è la disciplina che più delle altre riesce a unire tutti quanti, però la possibilità di sentirsi un vicino all'altro nel vedere uno spettacolo sportivo è un'occasione straordinaria per creare emozioni. Gli ultimi europei sono un esempio incredibile. Infatti qualcuno ci ha scritto anche, Prandelli ci ha fatto un po' rivivere quelle emozioni anche con questi. Ma siamo, io credo noi ci sia un po' tutti alla disperata ricerca di occasioni per sentirsi come gruppo, per sentire di condividere qualcosina. Guardare un evento sportivo è un'occasione per stare insieme, ed è una società, la nostra, che invece qualche volta è un po' individualista. Quindi lo sport aiuta molto. Grazie Andrea, passavi di qua, ti abbiamo colto al volo, ma era importante e bello sentire anche la tua testimonianza di quel bellissimo mondiale. Buon divertimento e buone Olimpiadi a tutti. Buone Olimpiadi, ne parleremo molto in questi giorni a tempo di sport. Abbiamo chiuso questa vicenda del ricordo di quel bellissimo mondiale, ma andiamo anche sull'attualità, perché abbiamo detto tante parole oggi di Andrea Agnelli alla presentazione delle maglie della Juventus. Domani approfondiremo molto questo aspetto, perché ci sarà il raduno della Juventus, quindi avremo tante voci, avremo modo di approfondire. Sentite cosa ha detto Andrea Agnelli su Scudetti e Stelle. Il trentesimo scudetto nell'immaginario collettivo comporta l'idea delle tre stelle. Tre stelle che sono all'ingresso di questo stadio, sono assolutamente ben visibili, e noi tutti juventini, quindi gli juventini veri, si sentono veramente questi 30 scudetti che sono stati vinti sul campo. Noi contiamo gli scudetti, mettiamo uno più uno più uno più uno più uno più uno in fila e ci viene 30. Quando però guardo quello che è l'aritmetica della federazione, fanno uno più uno più uno più uno, ne saltano due più uno e fa 28. E quindi qui evidentemente non ci troviamo molto d'accordo. Quello che è stato il ragionamento che noi abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le due stelle, che sono quelle che rappresentavano i 29 scudetti fino a ieri, quindi la stella ne rappresenta 10. Noi non riconosciamo più il modo che ha di contare, cioè l'aritmetica della federazione, e abbiamo deciso di togliere le stelle dalla maglia, perché non riconosciamo più il modo che ha di calcolare la federazione. E allora ancora polemiche che vengono da Andrea Agnelli, via le stelle dalla maglia. Polemiche anche dopo una battuta, secondo me assolutamente fuori luogo, da parte di Allegri al raduno del Milan, che parlava di uno scudetto in più per aver vinto il campionato di Serie B, forse si poteva evitarla. Sentite cosa ha risposto Andrea Agnelli. La maglia numero 10 credo che decideranno poi i ragazzi. I numeri, c'è chi tiene quello dell'anno precedente, quelli che si trovano liberi decideranno i ragazzi. A me fa particolarmente sorridere come tutti parlano di Juventus e noi cerchiamo, cioè, non rispettando quella che dovrebbe essere una regola normale dove ognuno guarda in casa le sue problematiche piuttosto che le sue qualità e si dimentica degli altri. Quindi rispondo a te e poi non rispondo più a nessun'altra domanda su chi ha detto cosa della Juventus, perché io rispondo della Juventus, gli altri pensino agli affari loro. Allegri ha avuto una battuta, io al Milan avrà 2 stelle, quindi... Ma sì, poteva evitarsela quella battuta, naturalmente. Allegri, vi ripeto, avremo modo domani di approfondire tutti questi temi legati alla Juventus. Agnelli ha parlato anche di Conte, Antonio Conte, che appunto molti dicono magari c'è un piano B su Conte dopo quello che sta succedendo riguardo al calcio scommesse, ma Agnelli lo ha escluso. Noi abbiamo, come tutti voi sapete, soprattutto il nostro mister, che è stato più volte portato sulle prime pagine dei giornali su una vicenda dove non ha ancora avuto la possibilità di far sentire la sua voce. Adesso finalmente venerdì andrà a Roma in quanto è stato convocato dal procuratore Palazzi. Io personalmente ho già avuto modo di spiegare quella che è la mia valutazione su Antonio. Io conosco Antonio da 20 anni, conosco i suoi valori, conosco la sua personalità e so che lui, da quando si alza a quando va a dormire e poi lo sogna, pensa solo alla vittoria, che sua figlia è quello che vuole come risultato sul campo. E quindi anche su Conte non ci sono non c'è un piano B per quanto riguarda la Juve. Conte è e sarà l'allenatore della Juventus. Domani, per chi volesse intervenire su questo tema, 349-238-6666, poi 800-24-0024, avremo anche tante voci di tifosi eccellenti della Juventus che ci diranno cosa pensano anche di quello che ha detto Andrea Agnelli oggi, di quella che è la Juventus del domani e la Juventus del prossimo campionato, della prossima Champions League. Voltiamo ancora pagina e andiamo a parlare di ciclismo, perché noi non ci scordiamo naturalmente del Tour de France. Oggi Marco Pastonesi sulla Gazzetta dello Sport, nel suo fondo, in apertura della pagina dedicata al Tour, dice: non è un Tour chiuso, anche se lo sembra. Pier Augusto Stagi, buongiorno, buon tour naturalmente, quindi non è chiuso come sembra? No, non è chiuso, e sicuramente in questo momento un po' bloccato, però c'è il terreno per poter forzare. Bisogna avere coraggio, bisogna avere forza, bisogna avere fantasia. Ci sono 2 corridori che hanno queste caratteristiche, che sono Cadel Evans e Vincenzo Nibali, e quindi ci auguriamo che possano sin da oggi ricominciare l'operazione recupero. Ricordo che non solo dovranno recuperare quei 2 minuti e mezzo che li separano dalla maglia gialla, ma dovranno anche andare a portare fine in cascina importante, perché Bradley Wiggins è un corridore che ha ancora la possibilità a sua disposizione, ha un cronometro di 53 km che lo vede nettamente favorito e quindi ha la possibilità. Infatti era questo che volevo chiederti, Pier Augusto, c'è ancora quella cronometro, quindi uno può recuperare sicuramente quei 2 minuti e mezzo e speriamo che in primo luogo lo faccia il nostro Nibali, però poi c'è quello scoglio che è lì alla chiusura del Tour. Allora, il Tour ha tanti scogli da superare, ci auguriamo che soprattutto per Bradley Wiggins lo scoglio più grosso sia dato dalla terza settimana, dove ad oggi il britannico ha sempre così offerto delle prestazioni non all'altezza della situazione della terza settimana, ha sempre vissuto una giornata di grandi difficoltà, di crisi, di recupero. Certo, chi lo conosce bene, quelli del suo staff, sono assolutamente sicuri che quest'anno Wiggins abbia tutto per reggere molto molto bene anche nell'ultima settimana. Devo dire che dalla parte sua ha avuto la mano buona degli organizzatori, che quest'anno gli hanno messo a disposizione un percorso che gli sorride enormemente, perché non ci sono salite impossibili, non ci sono delle vette da capogiro, non si va a 2500-2600 metri, che contrariamente a quanto possano pensare o anche i miei colleghi che hanno scritto che quello che conta è la pendenza e non la lunghezza di una salita, che è assolutamente una sciocchezza, perché invece i grandi giri, la grande storia del ciclismo è stata costruita e scritta sulle grandi vette, su quelle salite di 20 km dove si pedala per 50 minuti, un'ora, e magari si pedala per mezz'ora, 40 minuti, oltre 2000 metri, che non è come pedalare a 1600 o 1700. Certo, le pendenze contano, ma la salita lunga è fondamentale. Il problema è che in questo Giro di Francia non ci sono salite così impossibili. Va bene, grazie Pier. Naturalmente i prossimi radiogiornali per sapere meglio della tappa di oggi lo ritroveremo domani. Pier Augusto Stagi, nostro inviato al Tour de France. Chiudiamo qui questa puntata di A Tempo di Sport. Abbiamo parlato molto del mondiale del 1982. Continuate a scriverci ricordandoci dove eravate. Grazie a Laura Vanossi in redazione, a Matteo Comes in regia. A Tempo di Sport torna domani dalle 14 alle 15, ora destini incrociati. We'll be right back.